Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A non più di 150-200 metri di altezza passò un oggetto enorme, a forma di grosso sigaro, di colore grigio, con intorno un alone di luce verde chiaro. La cosa passò a una velocità che sfuggiva alle mie cognizioni e non emetteva alcun rumore né alcuno spostamento d'aria. E poi di colpo tornò la notte. Io sono Eugenio, ho 52 anni, vivo a Napoli e sono un consulente del tribunale. Sono sposato, ho due figlie, una di 15 e una di 11. Ma forse l'episodio più notevole, che addirittura fu al centro di un cinegiornale dell'Istituto Luce, fu appunto il caso di Firenze. Firenze, Prato e le zone immediatamente vicine furono il 27 di ottobre del 54 sorvolate da formazioni di questi oggetti a forma discoidale, oblunga, e addirittura ci fu il blocco, il fermo praticamente della amichevole fiorentina pistoiese allo stadio Artemio Franchi, perché prima il pubblico, poi i giocatori e infine l'arbitro si resero conto che sulle loro teste c'era qualcosa di assolutamente strano. Firenze, 1954. In città è la signora Curradi, dimorante in via Paolo Sarpi, ad avere visto, verso le 18:10 nel cielo, un sigaro luminoso. La signora stava tornando a casa quando, giunta in via Scipione Ammirato, ha scorto distintamente l'oggetto luminoso di una luce intensa biancastra attraversare il cielo nel senso Piazzale Michelangelo, Fiesole. Giunta a casa, ha aspettato il marito, che è tornato poco dopo, e gli ha parlato della strana visione, ed è rimasta sorpresa dal fatto che anche il marito aveva notato l'oggetto luminoso esattamente alla stessa ora, mentre attraversava il passaggio a livello dell'Africo. Ci sono degli argomenti che dividono l'opinione pubblica. La politica, il calcio, il sesso e un sacco di altri. Non sto a elencarli tutti, altrimenti arrivo alle 16:45. Ci sono invece però argomenti che dividono l'opinione pubblica in maniera diversa da quella, nel senso che quella li divide di solito metà e metà. Magari c'è una maggioranza, magari c'è una minoranza. E poi ci sono argomenti come quello che trattiamo oggi, che ho quasi paura a nominarlo, ma lo farò più tardi, che dividono l'opinione pubblica in due modi: in pochi che ci credono o che li sostengono, e in moltissimi che invece, in sostanza, detta male, li sfottono. Oggi abbiamo a che fare con quella roba che negli Stati Uniti chiamano UFO, in Italia chiamano UFO, e sono gli oggetti volanti non identificati. Non siamo diventati pazzi, sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia in diretta da Roma, ringrazio Gloria Guerrera e Alessandro Cappini di là dal vetro che mi tengono compagnia, in qualche modo, oltre a supportarmi tecnicamente e umanamente, perché la puntata di oggi è effettivamente abbastanza complicata, cioè mettetevi nei miei panni. Ogni giorno ci arrivano un sacco di racconti che, come voi sapete, io e Tiziano raccogliamo e leggiamo di solito in un botto, finché delle volte ci incappiamo in racconti come questi. Devo dire, non molto di frequente. Il racconto di Eugenio è una testimonianza, d'altra parte è quello che noi chiediamo, cioè è un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. E l'episodio di oggi, cioè l'episodio di Eugenio, racconta di una notte in cui, in sostanza, detta male, il cielo si è illuminato. Il pezzo che avete sentito in apertura di programma è un seguito poi dalla lettura di un articolo dell'epoca tratto dalla Nazione del 1954, ma dicevo, il documentario che avete sentito in apertura è tratto proprio da un documentario, non solo audio, proprio un documentario video che tra l'altro Tiziano ha postato sul profilo Facebook del programma, quindi se volete vederlo andate a vederlo, che è curato da due artisti che si chiamano Postcard from Beirut, e racconta questa sorta di improvvisa psicosi che prese gli abitanti dell'Italia centrale, direi, perché aveva a che fare soprattutto con la Toscana, per l'avvistamento di dischi volanti sopra Firenze, ma non solo, vi dico meglio, sopra Firenze, sopra Pietrasanta, Lucca e Massa. Sì, eravamo nel 1954 quando accadeva questo. Allora, io vi chiedo semplicemente di fare una cosa: nella puntata di oggi mettetevi comodi ad ascoltarla, sospendete il giudizio, state solo a sentire quello che succede e lo dico a bassa voce, se avete visto degli UFO nella vostra vita. 349-238-6666. Questa è la storia di Eugenio.

al centro di quella luce c'era qualcosa di colore grigio molto grande, che c'era soltanto un alone intorno fluorescente, molto più forte della fluorescenza che si era venuta a verificare tutto intorno. Ok, insomma, era una roba molto particolare. E c'era qualcosa al centro, Matteo. E cos'era qualcosa al centro? Mi piace che mi chiami per nome, come per dire: Matteo, stai qui con me, seguimi, Matteo. No, c'era qualcosa al centro, Matteo, lo dico perché l'ho visto, okay. Non ero solo, ero con mia figlia, praticamente era qualcosa di grigio, di grosso, di oblungo, dalla mia posizione praticamente era oblungo, e non è passato chissà a quale distanza. Io ho calcolato che è passato non più di 200 metri. Sì, come lo dici, come dici. Senti, io purtroppo devo chiudere, che devo dare la linea alla borsa. Tu eri, già prima di questo avvistamento, eri particolarmente interessato a cose strane che volevo? Assolutamente no. Avevo i miei dubbi, oggi ne ho qualcuno in meno. Va bene, Eugenio. Loro saranno lì. questa non è male, Eugenio, grazie mille, in bocca al lupo per grazie tutto. Grazie a te, Matteo, alla prossima. Ciao, grazie. Nella foto che ci ha inviato Eugenio e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, è a occhio e croce a un matrimonio. È all'aperto, sta diventando buio, nonostante il suo racconto sia tutto basato sulla luce, sta diventando sera. È un bel signore sui 50, forse qualcosa di più, no, 50 mi pare, con degli occhiali, un abito grigio da matrimonio, camicia bianca e cravatta rossa, e ha la faccia di uno che forse qualcosa di strano nella sua vita l'ha vista. UFO. Qualsiasi oggetto volante non identificato che si presume provenire da un altro pianeta. Ipotetico essere vivente proveniente da altri pianeti. Etimo, dall'inglese Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato. Data 1963. Unidentified, ce la farò. 349-238-6666, unidentified, oggetto volante non identificato, che vale per tutto però, no? Cioè, l'UFO non è per forza un alieno, l'UFO è qualsiasi roba che non abbia un'identificazione che vola nel cielo. Sì, flying. Io spesso ho i noti déjà vu, mi scrive qualcuno da Livorno, non si firma. Non ridere, Matteo, ma... hai capito la sensazione di aver già visto certi momenti? Sì, però guarda, non ha niente a che fare con gli UFO sta roba qua, e come spiega Matrix sono dei problemi con la matrice, credo, degli errori spazio-temporali con la matrice che noi stiamo vivendo, quindi questa è semplicemente un'impressione. E poi, ecco, ragazzi, non mandatemi questi messaggi, che io vorrei dormire sereno la notte. Sono anni che periodicamente ci sono esseri fatti di ombra che mi bloccano e mi toccano durante la notte. Non sono pazzo, perché è capitato anche a mio fratello. Anche a mio fratello. Però aspetta un attimo. Cioè, tu come testimone non puoi avere tuo fratello, deve avere qualcun altro. Perché, come dire, anche mio cugino è d'accordo. Cioè, trovami una persona che sia vicino a te e che abbia sentito questi esseri fatti di ombra che ti bloccano e ti toccano durante la notte. Ciao Matteo, un fenomeno tipo quelli che si manifestano in Islanda è quello di cui parli nel racconto, se non sbaglio è dovuto ai campi magnetici. Lino, ecco, io in realtà vorrei, però magari lo leggo dopo perché mi sa che non ho più tempo, perché è arrivata Nicolò ha postato sul profilo Facebook del programma, credo, la giustificazione di tutto quello che è successo, ma non a caso, proprio quel giorno lì, il giorno del racconto, il 12 febbraio del 2011 alle ore 23:30. Prima voglio leggervi un altro pezzo tratto da un giornale dell'epoca, è il 1954 ed è La Nazione. Parigi, 11 ottobre 1954. I misteriosi corpi volanti che sembravano avere abbandonato il cielo della Francia hanno fatto ieri una nuova apparizione. Presso Mâcon è stato avvistato un disco che, contrariamente agli altri, non era luminoso. È stata scorta una sfera luminosa attraversare il cielo a grande velocità, presso Angoulême. Qui una trentina di persone hanno visto una specie di sigaro volante, così dicevano, munito di piccole ali, che dopo essere rimasto una ventina di minuti immobile a una quarantina di metri dal suolo, è partito a una velocità di circa 300 km all'ora. Nel dipartimento dell'Orne, numerosi abitanti hanno avvistato una specie di razzo che saliva verticalmente e senza rumore. lasciando dietro di sé una leggera scia bianca. E un'altra persona ha visto una palla di fuoco con una gobba sulla parte superiore sfiorare la cima degli alberi. Ma la Francia non è il solo paese dove si verifichino questi singolari fenomeni. Anzi, è il caso di dire che ormai in tutte le parti del mondo le strane apparizioni hanno fatto la loro comparsa. Sul mistero di questi dischi volanti ha destato interesse e soprattutto divertita curiosità l'interpretazione da parte dei comunisti rumeni. Il giornale Contemporaneu scrive infatti: non si tratta di un'arma sconosciuta, ma semplicemente di grandi pezzi di cartone rivestiti di carta argentata e sospesi a guisa di palloni. Essi hanno un'illuminazione interna ottenuta con 15 lampade a batteria. È con questi arnesi primitivi portati in Europa che gli Stati Uniti vogliono impressionare la gente che crede nella loro propaganda e suscitare contro Mosca una psicosi dei dischi volanti. (349) 238 6666. Gigi mi scrive: ho scritto una storia, ma siccome la crederesti incredibile o inventata, non so se mandarla. Gigi, non penso né che sia incredibile né che sia inventata la storia di Eugenio, e quindi mandami la storia. Non ho idee preconcette, semplicemente spero sempre ci sia una spiegazione a tutto, e devo dire che questa è forse la prima puntata in cui si solleva un quesito, ci si pone una domanda e si risponde prima della fine, perché grazie a Nicolò Conte, dico anche il suo nome per intero, che ha postato un link sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui, Radio 24, lo trovate, c'è la spiegazione effettiva a quello che abbiamo sentito raccontare da Eugenio. Quindi parliamo del 12 febbraio 2011 alle ore 23:30. C'è questo sito che è di gente che insomma è interessata al cielo, a quello che succede. Il 12 febbraio 2011 sono stati registrati due eventi meteorici di rilievo. Tra questi, il secondo in ordine di tempo è stato identificato come un superbolide di magnitudo 18 che ha illuminato l'intera area geografica tirrenica. Tale evento è il primo del suo genere ad essere registrato nel nostro gruppo di studio. E poi c'è la telecamera che è stata utilizzata e ci sono 1, 2, 3, 4, 5 fotogrammi che dimostrano, si vede, da cui si vede il cielo di sopra l'Ariano Romano, così dice la didascalia. Prima nero, poi un po' più illuminato e poi luminosissimo. Grazie comunque a Eugenio per la sua storia, grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina, Stefano D'Andrea a Milano, e invece qui a Roma Alessandro Chiappini e Gloria Guerrera. Se avete voglia, io tra un'ora e mezza sono alla Feltrinelli vicino a Piazza Esedra, giusto? Via Amedeo Orlando. A fare cosa? Se avete voglia, se siete di Roma, venite a scoprirlo lì. La storia di oggi era la storia di Eugenio, e anche lui, da oggi, è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Francesca Ballerio, ho 39 anni, la storia di domani è la mia e parla di un corso di italiano per stranieri. Questa è la mia storia e io sono qui.